Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Siamo qui, caro Oscar, alle 8:18 minuti. E fino alle 9:30 siamo in diretta anche questo 22 luglio. Ma lo sai che c'è qualcuno che ci dice che stiamo dando le istruzioni per fare le bombe? L'hai visto? Le bombe? Eh sì, nella nostra sigla, hai capito? Ah sì, siccome... è vero, uno ci ha scritto dicendo togliete gli ingredienti. Ragazzi, ma se siamo a questo punto è finita. Ma quello è il film Attenti a quei esatto, due. Esatto, grandissima coppia del cinema. Da qui Attenti a noi due. Dai, quindi, se siamo a questo, ragazzi, Erdogan ha già vinto, cioè non vorrei dire. Cosa ne pensate? 800 24 00 24. No, scherzo, potete chiamare su tutto, anche su questo se volete buttarvi. Possiamo garantirvi che se fate quello che sentite comunque non produrrete nulla di significativo. Detto questo, oggi 22 luglio, Maria Maddalena, cioè la santa che impersonifica nei fasti della Chiesa ciò che devono fare le donne, cioè le peccatrici si devono pentire. Maria Maddalena è una santa sempre fondamentale nel pantheon delle sante, perché è questo prototipo femminile. Però attenzione, ci sarà una ragione se Cristo appare per prima a lei, scandalizzando ovviamente secoli e secoli di teologi cattolici. Quindi era una scelta rivoluzionaria da parte del Signore. Quindi, detto tutto questo, cose altre da festeggiare o ricordare oggi. Nel 2001 moriva alla clinica Madonna di Milano Indro Montanelli. Ah. E ricordiamolo, perché secondo me ne vale sempre la pena. E ricordiamo anche che quando se ne andò lasciò due righe chiare: non sono gradite né commemorazioni religiose né tantomeno civili. Quindi aveva l'idea che non voleva sentire da morto ipocrisie. Nel 356 a.C. nasceva Alessandro Magno, invece un po' di anni dopo Nina Moric. Qui mischiamo l'alto e il basso. Vabbè, ma mi sembra giusto, è la regola principe dell'informazione. Allora, cari ascoltatori, come detto il numero è quello 800 24 00 24. Noi parleremo di tanti temi, tantissimi, perché intanto del reato di tortura, no, di che è stato tortura. Affrontato in un disegno di legge che poi è stato rinviato. C'è una polemica che in realtà sui giornali è affiorata, non molto, Oscar, però c'è stata. C'è stata, ricordiamo. Perché l'idea è che noi siamo indietro nella ratifica, nell'introduzione formale del reato di tortura. In realtà c'è poi chi risponde: sì, vabbè, ma non è che se torturi un altro non viene punito dalle fattispecie che esistono al codice penale. Però qui stiamo parlando un po' della fattispecie in sé e per sé. Sì, tra l'altro ricordiamo che proprio un anno fa la Corte Europea dei Diritti Umani di Strasburgo ci condannò per il G8 di Genova, l'irruzione alla scuola Diaz, e quindi questo aveva rilanciato il dibattito sulla necessità della... E comunque dietro la polemica c'è proprio anche strisciante questa contrarietà che viene attribuita ai corpi dello Stato a una fattispecie così identificata, perché lo vedono, rispetto al nostro ordinamento, come una cosa che si potrebbe applicare soprattutto a loro. Parleremo anche poi di sicurezza nelle città. Qualcuno ci ha detto dobbiamo israelizzarci, possiamo utilizzare questo termine per capire, comportarci come in Israele. Modelli di sicurezza diffusi dagli autobus a qualunque cosa, alle farmacie, una vita però in cui tutti devono accettare limitazioni parecchio severe alla libertà e accettarle come l'espressione condivisa di un aumento della sicurezza necessaria. Io sono convinto che gli italiani non sarebbero disposti, però. Ma secondo me non sarebbero disposti, sono anche paragoni un po' azzardati, situazioni diverse. Lì c'è un paese perennemente in guerra o sull'orlo della guerra, accerchiato, dove la gente va liberamente. Con i razzi. No, non c'è dubbio. Quindi c'è un paese che si è costruito con un'identità di quel tipo. Tra l'altro, se chiunque va in Israele può notare che la gente va in giro, anche i soldati, anche in abiti civili, con il fucile a tracolla. Cioè, sono scene che già in Italia, se si vedesse solo mezza inizierebbe il panico. È proprio tutta una situazione completamente diversa. Infatti sono molto d'accordo anch'io, credo che non, gli italiani ti farebbero per chi tira i missili in 5 minuti e farebbero accordi con loro. Nella tradizione italiana abbiamo fatto così ufficialmente, no? Eccolo, non ricordiamo. Eccolo. No, ma è così dal 1973 in poi, protocollo Moro-Olp, noi abbiamo sempre trattato e fatto patti con chi tira i missili, non... Sì, sta di fatto che però quello che è successo a Nizza, cioè pare un livello bassissimo di sicurezza, una sola macchina della polizia o municipale o della gendarmeria, adesso voglio dire, ma una sola macchina a controllare una zona affollatissima in Francia. Certo, non si può blindare tutte le città francesi il 14 luglio in maniera militare, però quando ci sono 50.000 persone assiepate sul lungomare, un tir dice porto gelati, forse qualche dubbio ti può venire. Parleremo anche di questa cosa delle lobby. Noi in realtà, Oscar, spieghiamolo, avevamo chiamato Fabio Bistoncini, abbiamo chiamato Fabio Bistoncini, cioè colui che ha organizzato l'incontro con Luigi Di Maio del Movimento 5 Stelle, che è un professionista di rappresentanza di interessi, che ha scritto anche bellissimi libri, perché gli vanno riconosciuti, esatto. Dicendo noi dobbiamo batterci perché ci sia una soluzione istituzionale trasparente, come tanti altri paesi, l'albo ufficiale di quelli che sono abilitati in Parlamento a parlare, esatto, con il partito. Le lobby, come succede per esempio negli Stati Uniti, solo che l'abbiamo chiamato e poi è esplosa questa bufera incredibile per le parole di Luigi Di Maio, che in un lungo post su Facebook ha citato, e secondo me bisognerebbe tenere fuori la politica per una volta. Ah, non c'entro, cioè, sono d'accordo. Con uno scivolone, perché al di là delle precisazioni, del modo in cui lo volevo dire in questo senso, ma la parola lobby dei malati di cancro, l'espressione secondo me non si può sentire, voglio dire. Fatto bene secondo me te a dire, te lo riconosco proprio, perché hai trovato l'espressione giusta, non si può sentire, e hai aggiunto con le scuse o senza. Ma sì, con scuse o senza, o precisazioni, esatto, o senza, cioè sono quelle, voglio dire, è inutile poi dire ma voleva, esatto, dire, specificare, è una, perché proprio una frase infelice, un'espressione infelice. Politici o non politici, chiunque ricorre in questa espressione così senza neanche pensarci, no? Oppure, come dire, estirpiamo il cancro, detto di qualunque problema, fosse sia politico o economico, cioè, ecco, finché non ci si rende conto, si acquista la consapevolezza che è completamente, non solo è sbagliata, ma che, per così dire, suona come suona uno male, schiaffo, suona male, faccia suona poi male a chi affronta questo problema seriamente o perché ce l'ha o professionalmente. Piantiamola lì, quindi bisogna pensarci e starci attenti, okay, per favore. No, ma perché poi ha specificato, ma riguardava le associazioni, ha anche chiesto scusa se le persone si sono sentite, soprattutto le persone toccate da questo problema, si sono sentite, come dire, offese. Questo almeno gli va dato atto delle scuse, però è un'espressione proprio. Ma ti ricordi infelice, quando Berlusconi annunciava che lui avrebbe sconfitto? E come no, guarda, l'abbiamo forse anche recuperata, perché per dire che la politica deve starne fuori da queste cose che riguardano la vita di milioni di persone, ma la vita, non la vita politica, la vita vera e propria. Berlusconi lo disse, ma no, lo dobbiamo ancora recuperare, lo sentiremo. Però ci chiama Simone dalla provincia di Lecco, buongiorno Simone. Sì, buongiorno. Ci dica. Niente, telefonavo per il discorso del reato di tortura e per collegarmi su questo discorso anche per parlare di altre cose che stanno uscendo da parte del governo italiano sui corpi di polizia. Perché praticamente il governo italiano in questi giorni sta approvando la soppressione di un corpo delle forze di polizia italiano per farlo transitare. Corpo di polizia civile, per farlo presentare all'interno di un corpo di polizia militare. C'è in atto una militarizzazione di un corpo di polizia. Quale, però, scusi, ci dica? Il corpo forestale dello Stato. Vabbè, però cosa c'entra col reato di tortura? Sì. No, le sto dicendo, sicuramente il reato di tortura è una cosa che va approvata, secondo il mio punto di vista. E cosa c'entra col corpo non forestale? È una legge, perché si sta arrivando alla militarizzazione non solo di questo, perché nello stesso decreto si sta studiando l'applicazione di articoli militari ai corpi di polizia civile. Non è proprio una cosa così, perché allora le faccio un esempio: un poliziotto per obbligo di legge deve intervenire nel momento in cui c'è un reato, giusto? Sì. Lo può intervenire senza dar comunicazione ai suoi superiori, deve solo esclusivamente dare conto giustamente alla magistratura. In questo momento con questo articolo prima deve passare dal suo superiore militare, nel caso di chi già lo applica all'interno del suo regolamento, e poi andare alla magistratura. Sì, ma guarda, io faccio fatica a seguirla, cioè nel senso la lettura di un articolo del decreto, ma lei lo conosce perché parte in causa, non lo so, Simone, mi scusi se... Faccio parte, sì, sono rappresentante sindacale dei sindacati, qui anche c'è anche questo corpo di polizia. Sì. L'abbiamo, si è letto vari decreti, perché questo decreto comunque opera su, tecnicamente vorrebbe operare su tutte le polizie. Però sì, è fatto molto ci dica, cioè, diciamo, al di là dell'esame dei decreti, perché sennò facciamo gli emendamenti alla Camera, l'idea del reato di tortura da introdurre nel codice italiano, lei lo vede come una cosa che può essere vista, come dicono molti operatori delle forze dell'ordine, attenzione, rischiamo le incriminazioni per reato di tortura ogni qualvolta facciamo un fermo, un arresto, cioè vede questo allarme oppure no? Allora, il problema di base è, secondo la mia modesta opinione, sempre come viene scritto, perché va sempre visto come viene interpretato, purtroppo, al momento della magistrazione. Va bene. È lì la problematica di base, perché è molto sindacalista, molto sindacalista, Simone. No, ma per carità, che non è però voglio dire, di fronte a una domanda secca, una risposta secca, sì o no, poi dopo, certo, dipende come va scritto. Però Simone, la ringraziamo per il suo intervento un po' sindacalese. Per gli ascoltatori, sì, per capirci, la questione è: sono esistiti e sono ricorrenti nella storia italiana momenti difficili, condizioni particolari per le quali interventi della polizia in tempi immediati e fuori a quel punto dalla, non solo in funzione di polizia giudiziaria ma preventiva, possono configurare problemi seri tipo Genova? La risposta alla domanda è sì, no, ecco. Oppure, seconda questione, è meglio avere chiaro passo per passo che la polizia giudiziaria, quando interviene, deve rispondere alla magistratura di quello che fa? Sì, no, ecco, sono questi due punti fondamentali, cioè esistono questioni di diritti di libertà da tutelare, meglio, ecco, questo è il punto del reato di tortura. Tra l'altro ci chiama invece Stefania da Milano, buongiorno Stefania. C'è Stefania? È in linea Stefania? Non si sa, non si sa. Oggi siamo un po' sfortunati. E come dici tu, è venerdì. È venerdì, la gente quindi chiama, poi si va in vacanza, i telefoni li mettiamo in linea e vanno in vacanza. Stefania, ci senti? Sì, buongiorno. Stava cercando il Pokémon, lo sappiamo. Esatto, usi il telefono non per cercare Pokémon, ma per parlare con noi. Dica Stefania. No, io volevo solo citare, riprendere quello che lei aveva detto a proposito di Israele, la paura che la gente abbia in Israele e potrebbe avere in Italia vedendo come la gente vive in Israele. E invece volevo solo ricordare che in Israele la gente vive assolutamente come qui, cioè credo che ci sia il più alto numero di persone che vanno all'opera, che vanno a concerti, che vanno assolutamente che frequentano la vita pubblica. Intendevo il fatto che basta girare per Gerusalemme, Tel Aviv, eccetera, e vedere che ci sono anche le persone che girano armate, sono in genere soldati, sì, che svestono gli abiti. No, ma Stefania, nessuno di noi ha sostenuto che si tratta di un paese che vive sottoterra nei bunker. Al contrario, chi conosce Israele, è un paese che vive molto cercando si figuri, di vivere, ma non c'è dubbio, è un paese che ha adattato alla sicurezza regole, chiedere ma senza stravolgere come loro fanno, e imparare serenamente, cercare di applicare alcune delle regole base. Per esempio, se in Israele una signora lascia per 30 secondi la sua borsetta al bar, ci sono tre persone che si avvicinano e le chiedono se la borsetta è sua, cosa che non sarebbe male fare anche qui. Già, sì, lei capisce che ha dato un esempio che fa capire il timore appunto, perché purtroppo ci sono stati moltissimi attentati proprio legati anche a zaini abbandonati pieni di esplosivo. Comunque no, Stefania, lei ha fatto bene a precisare, ma come si diceva Oscar, si racconta semplicemente lo spaccato in un paese di immagini. Noi accettiamo di passeggiare per Milano e vedere persone magari che sono soldati in abiti civili armati, perché non bisogna mai abbandonare il proprio fucile e quindi girare con il fucile a tracolla, questo si voleva dire. insomma, sono immagini. Ne dubito assai. Tu ne dubiti. Già vedo i pensosi editoriali di una parte prevalente della nostra stampa che dice che no, ma che di qua, di là. Ne dubito molto. Proprio io non dubito. Vabbè, però molto. Effettivamente la situazione di partenza è molto diversa. Non è che siamo accerchiati, non è che arrivano i razzi di Hezbollah qui da noi. Però allora ci dobbiamo mettere d'accordo. Scusa, sto rischio c'è o non c'è? Se c'è, bisogna che ci attrezziamo. Non credo che altrimenti sia a livello di Israele in questo momento. Però altrimenti non facciamo polemiche dopo che succede la promenade, che c'è poca polizia. Questo voglio dire, noi ci dobbiamo mettere d'accordo con noi stessi. Il rischio c'è o non c'è? Se c'è, bisogna alzarlo il livello di protezione. Quindi abituarci in tutti i luoghi pubblici, tutti significa tutti, compreso lo stadio di Springsteen, chiaro? Cioè non è che lo stadio di Springsteen fa eccezione, perché come si vede si colpisce dove è più facile colpire ormai. Gli stadi di calcio ci hanno provato non a caso, no? Ecco. Allora, significa accettare un'idea in cui da lì i trasporti, le strade, le piazze, qualunque pezzo della vita pubblica deve accettare controlli sistematici, presenze di armati, diminuzione dei gradi di libertà, condivise e vissute con serenità, anzi con un'appartenenza all'identità che chi le contesta non fa parte della propria comunità. Io credo che in Italia invece noi oscilliamo da un eccesso di critica alle forze dell'ordine, ai magistrati quando c'è un guaio, a dire beh vabbè, allora non siamo mica Israele, e allora mettiamoci d'accordo. Qua in Italia nemmeno i militari possono girare armati, questo ci scrive lo scrittore Massimo. E beh, insomma, andate in Israele invece vedrete che la situazione è ben diversa. Ci chiama Vladimiro da Firenze, buongiorno. Buongiorno. Niente, io volevo intervenire in relazione al reato di tortura. Sì, è fondamentale che in uno Stato democratico sia limitato a quello che un agente di polizia giudiziaria può fare in occasione di un fermo di polizia o di un arresto. È fondamentale perché che ci siano dei limiti, ci sia una gabbia di comportamenti oltre i quali non si possa andare. Come difensore, insomma, come membro delle Camere Penali, più volte ci siamo interrogati su questa proposta di legge. È fondamentale che appunto sia un reato tipico delle forze di polizia. Sì. Quindi sarebbe fondamentale introdurlo, secondo lei? Assolutamente sì. Per quale motivo non ci deve essere una gabbia di comportamenti in cui circoscrivere quello che si può fare in occasione di un arresto? Perché cioè, la tortura è la tortura, cioè non è, sì. A me fa un po' sorridere sentir dire cioè no, se no abbiamo le mani legate non possiamo più fare niente. No, non è così, insomma c'è la tortura, c'è il fermo, c'è la privazione della libertà che è necessaria al fine di mettere la persona. Teniamo conto di una cosa, Vladimiro, come lei saprà essere un avvocato, l'Italia ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, quindi non è che la tortura in Italia è possibile farla. Assolutamente no, quindi questo è chiarissimo. Non c'è però una legge specifica, esatto, sul reato di esatto tortura, ecco, però siamo all'interno dell'ONU, c'è la convenzione che abbiamo ratificato e quindi la tortura non è possibile, non è consentita. Si vuole da parte di alcuni un reato specifico, no? Questa è la questione che tra l'altro, Oscar, affronteremo tra poco. Avremo un rappresentante del SAP, sindacato di polizia, il presidente, ma avremo anche Alfonso Sabella, ti ricordi, ex assessore alla legalità della Giunta Marino. Perché l'abbiamo chiamato? Perché Sabella all'epoca del G8 era responsabile ispettore del DAP, cioè del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, esatto, e aveva la responsabilità proprio di quella caserma di Bolzaneto dove ci furono gli arresti, portate le persone. E quindi, insomma, ci sembrava giusto e doveroso. E sentiremo proprio dalle sue parole, perché lo spunto per cui l'abbiamo invitato è anche questo, come dei margini da chiarire ci siano, tanto vero che lui ha l'impressione che in quella vicenda sia pesato proprio un tentativo di strumentalizzazione, no, dovuto a mancanza di coordinamento e chiarezza tra parti dello Stato. Quindi sentiremo, è molto interessante proprio per questa ragione. Per questo. Tra poco, state con noi. State ascoltando un programma offerto da Fresca Salumeria Beretta. Tanti salumi italiani, buoni, gustosi e già affettati. Sono le 8:40 minuti, caro Oscar. Ci chiama Omar da Milano. Buongiorno. Buongiorno. Eccoci. Ecco, ho chiamato perché volevo affrontare l'argomento sicurezza da un punto di vista di cui non si parla mai. Perché secondo me il metodo, soprattutto nella società di oggi e con le minacce asimmetriche che abbiamo, i cittadini dovrebbero essere uno strumento di difesa, e come? Concedendo con un po' più di intelligenza, un po' più di facilità, dei porti d'armi da difesa, come avviene ad esempio in paesi come la Repubblica Ceca, come la Svizzera, dove moltissimi cittadini hanno un porto d'armi da difesa eppure hanno un basso tassissimo di criminalità e di reati legati alle armi, perché si dice sempre le armi il pericolo. Vabbè, capito, ma cioè, i cittadini sono in grado, che facciamo? I cittadini, lei cittadino è in grado di usare un'arma, valutare il pericolo, cioè che facciamo? Andiamo in giro a sparare al primo che passa? Le persone fanno un porto, come dire, nei porti d'armi si va a imparare a sparare, capito, si va al poligono. Ma ci sono le forze dell'ordine, ci sono i militari. Le forze dell'ordine, no? Non possono essere sempre e ovunque. Le dimostrazioni del Bataclan, di Charlie Hebdo, ne sono la prova. Quando un criminale entra con un'arma procurata illegalmente in un locale pieno di gente, non troverà nessun contrasto. Vabbè, insomma, lei dice i cittadini, grazie al porto d'armi, caro Oscar, diventino i difensori primi del... Come si vede, vedi, sono modelli culturali, perché i paesi che ha evocato il nostro ascoltatore sono modelli culturali. La Svizzera è un modello culturale in cui la ferma militare implica che ciascuno poi diventa consegnatario del fucile d'assalto che gli è assegnato. Però, ecco, ripeto, è una cultura plurisecolare quella della partecipazione al basso alla sicurezza della Svizzera, che è anche ciò che le ha fatta sconfiggere imperi nei secoli. È una questione di cultura. Noi siamo senza una cultura di riferimento sulla sicurezza diffusa, senza. Allora, cari ascoltatori, ci vuole o no una legge che istituisca il reato di tortura in maniera specifica, al di là del fatto, come ha detto, che l'Italia ha ratificato da tempo la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura? Ne vogliamo parlare, vogliamo salutare intanto Stefano Paoloni, che è presidente nazionale del SAP, uno dei sindacati di polizia. Buongiorno Paoloni. Eccoci. Buongiorno a voi. Voi siete tra i più fautori del dire no, non ci vuole. Perché? Quali sono i rischi per le forze dell'ordine, secondo lei? Ma guardi, i rischi sono molteplici, perché per come è stato costruito questo provvedimento di legge in esame ora al Parlamento, innanzitutto è nato come reato proprio, quindi specifico nei confronti delle forze dell'ordine, ma poi per come è costruito comporta dei rischi tali che le forze dell'ordine difficilmente potranno poi operare tranquillamente, se non incorrendo in una moltitudine di procedimenti giudiziari. Ma che tipo di rischi ci sono? Cioè, uno fa un fermo? Ad esempio, per gli interventi di polizia è previsto che possa essere condannata anche la sofferenza psichica inferta al soggetto. Questo è un elemento assolutamente non accertabile in modo concreto e pertanto invocato da chiunque, anche dal peggior delinquente che poi la notte non ci dorme e all'indomani i miei colleghi si troverebbero poi sottoposti a un procedimento penale. Oppure, ad esempio, l'istigazione non accolta, che è prevista solamente per i pubblici ufficiali. Si pensi che nel nostro ordinamento l'istigazione non accolta non esiste, e in questo modo invece andrebbe pure a violare i principi di tassatività e determinatezza previsti nel nostro ordinamento. Insomma, il rischio dice che ci siano una serie di cause nei confronti di operatori delle forze dell'ordine per aver operato in realtà nella legalità, ci dice lei, no? Esatto, assolutamente sì, anche perché il nostro ordinamento già prevede tutta una serie di reati che vanno a punire quelli che sono gli eventuali comportamenti previsti nella tortura, in un comportamento che può configurare tortura. Si pensi alle lesioni, al sequestro di persona, alla violenza privata, alle ingiurie, alle percosse. Ce n'è che si può stare in galera per due vite. In questo modo qua, aggiungendo, tra l'altro facendolo diventare reato istantaneo, quindi un semplice atteggiamento già potrebbe comportare il reato di tortura, e con la sofferenza psichica che assolutamente non è accertabile, imbavaglierebbe le forze dell'ordine. Guardi, c'è un grandissimo convincimento che noi ci sappiamo difendere da questo provvedimento di legge, ma poi abbiamo il grande timore di non saper, di non poter più difendere adeguatamente la propria gente. C'è da dire, già io mi preoccupo a sentire dire lei che vi dovete difendere da un provvedimento di legge, perché è già un atteggiamento, perdoni, che esprime mancanza di cooperazione istituzionale, mentalità conflittuale antagonista. Non me l'aspetterei da un rappresentante delle forze dell'ordine. Il problema, secondo me, me la metto sul culturale, sullo storico giornalistico, non in senso tecnico, sì. No? Perché io capisco che lei solleva un problema. Aspetti, lei solleva un problema perché dice: sa, se io devo intervenire e fare un intervento e mi devo porre preventivamente che qualunque cosa sia interpretabile come una sofferenza psicologica, beh, mi tengo le mani in tasca, come faccio a intervenire? Ditemelo. Questo lo capisco. Però dall'altra parte, sono esistite o meno nella storia italiana ricorrenti problemi che sono ancora ferite aperte nella storia nazionale, come abbiamo visto pochi giorni fa l'anniversario di quello che è avvenuto a Genova. Genova resta dopo tanti anni un'enorme pagina su cui non si è ricomposta una storia unitaria. E perché non si è ricomposta? Proprio perché esistevano ed esistono nell'ordinamento degli spazi grigi, chiamiamoli così, tra comportamento e poteri delle forze dell'ordine in quella fase preventiva. Lì non era esecuzione di provvedimenti di polizia giudiziaria, era ordine pubblico nelle piazze, coordinamento degli interventi, nel travolgere di ore in cui tutto sembrava sfuggire di mano e ricostruito ex post poi dalla magistratura è sembrato completamente diverso, a dire la verità. Allora, che cosa ci dice quella vicenda? Che c'è un problema o no? Secondo me la risposta è sì, e lo dico senza alcun pregiudizio verso l'importanza e la delicatezza di quello che fanno le forze dell'ordine. Ed è anche il motivo per cui abbiamo chiamato Sabella apposta, sì, no? Esatto, proprio per parlare di questo punto. Sabella che è con noi, Alfonso Sabella, buongiorno. Ricordiamo ex assessore alla legalità di Roma, ma l'abbiamo chiamata in questo caso perché lei, come raccontava ieri l'Huffington Post, credo, era all'epoca ispettore del DAP, all'epoca del G8, la vicenda di Bolzaneto. E lei ha una idea specifica di quello che successe in quegli anni, in quel periodo del G8, nel G8? Cioè che cosa, Sabella? Io l'idea me la sono fatta purtroppo successivamente, dopo aver appreso quello che è avvenuto nella caserma di Bolzaneto. Quello che è avvenuto in quella caserma, io non ero responsabile solo di Bolzaneto, attenzione, non ero responsabile nemmeno di Bolzaneto, ero il coordinatore dell'azione dell'attività dell'amministrazione penitenziaria che riguardava tutta una serie di interventi. Sì. Devo dire che purtroppo con molta amarezza, a distanza di anni, che ho scoperto che i posti dove non sono state commesse violenze da parte delle forze di polizia erano solo quelli dove stavo io e quando ci stavo io, che era un soggetto tutt'altro che omologo alle forze di polizia che operavano in quel contesto di assoluta follia. Io credo che l'Italia sia in colpevolissimo ritardo, che il reato di tortura vada introdotto al più presto nell'ordinamento, che le preoccupazioni che legittime, che capisco, avendo fatto il pubblico ministero, capisco quali sono le legittime preoccupazioni delle forze di polizia, ma credo che coi testi di legge sia che si voglia copiare, come sarebbe forse più opportuno, quello che emerge dalla Convenzione internazionale dell'ONU del 1984, dove la tortura è descritta benissimo e che permetterebbe di essere estesa ai casi in cui è veramente tortura, e di non coinvolgere nel fatto parliamo chiaro, lo spintone occasionale durante un segnalamento, o la manganellata di troppo che può scappare durante una manifestazione di piazza, quelli saranno puniti con se ci saranno le condizioni, con le singole pene previste dalle leggi per i singoli reati. Ma io credo che l'Italia sia veramente in colpevolissimo ritardo. Cioè non c'è, secondo lei, comunque ritardo. Il no. rischio, come anche ci sta dicendo il Presidente? Io vedo un rischio diverso invece nel punto di legge che attualmente è al Senato, perché lì, per esempio, se uno va a fare, poi la magistratura sicuramente darà l'interpretazione corretta, perché bisogna avere molta fiducia nella magistratura e nelle sue capacità comunque di adeguare sempre le leggi e di interpretarle sul caso concreto. Per esempio la Diaz sarebbe quello che è accaduto, la macelleria messicana della Diaz, nel testo che c'è al Senato probabilmente potrebbe non essere ricompreso, perché il testo del Senato parla di persona affidata alla custodia o all'autorità, e allora pensare che tutte le in quel caso non era affidata alla custodia o all'autorità, a meno che non dobbiamo dire che tutti i cittadini siano affidati all'autorità e alle forze di polizia, ma il nostro, grazie a Dio, è uno Stato democratico e le cose non stanno così. Quindi attenzione, io capisco le difficoltà, capisco che sia veramente complesso tirar fuori un provvedimento normativo che riesca a contemperare le opposte esigenze, che dia la tranquillità di operare alle forze di polizia, sì, da un lato, e che dia delle risposte agli obblighi internazionali, ma soprattutto agli obblighi umani che ha il nostro paese, per impedire che fatti come quelli di Bolzaneto, del fatto che mi brucia personalmente perché me l'hanno fatto sotto i miei occhi, di fatto io ero bloccato a Forza San Giuliano, ero altrove, e nonostante gli avessi detto, avessi dato tutte le indicazioni possibili e immaginabili, ho scoperto a freddo quello che poi era accaduto in quella maledetta caserma. E allora, vede, io credo che l'Italia non possa più perdere tempo, perché abbiamo un ritardo che non ha più nessun tipo di giustificazione. Ma perché lei dice, scusi, lei dice riguardo alla vicenda Bolzaneto, che ha già raccontato altre volte, me la fecero sotto gli occhi, cioè lei ne era responsabile, però ha raccontato di essere stato responsabile. Questa cosa, che io ero responsabile di Bolzaneto, io ero il coordinatore dell'attività di tutta l'amministrazione, sì, penitenziaria, che svolgeva, aveva la responsabilità, volendo, di 5 carceri, di 2000 persone, ma sì, dovevo, sì, coordinare, e avevo delegato il più alto in grado possibile, più esperti possibili, a svolgere quelle funzioni. Lì c'era un comandante di polizia penitenziaria, c'era un medico, un sanitario penitenziario, c'erano tutte le persone, un responsabile della matricola più delicata del paese. Quindi sostanzialmente a Bolzaneto c'erano persone che avevano quella professionalità e avevano avuto delle indicazioni, delle regole di ingaggio precise e chiarissime. Noi siamo qui, ho detto, c'è un video che ho prodotto ai pubblici ministeri in cui dico: noi siamo qui per assicurare la normalità, per assicurare il rispetto dei diritti. E cosa saltò? Cosa saltò in quell'occasione? Non l'ho capito, io credo che sia stato un momento di follia complessiva, che sia emersa, me lo permetto di dirla, una componente estremamente fascista che c'è all'interno di alcune parti delle forze di polizia, che in quel contesto. Vede, poi Bolzaneto, la cosa che mi fa rabbia è che Bolzaneto era totalmente a freddo. Io me lo faccio dire con la massima franchezza, l'avrei capito a Forte San Giuliano, dove infatti stavo io, e non è successo. Aspetti. Perché a Forte San Giuliano eravamo in pieno centro della città, c'era la tensione degli scontri. Lì erano persone che ormai erano fuori dagli scontri di piazza. Aspetta un attimo, Isabella, perché Oscar no, Giannino. Ma per far capire meglio, perché io ci tengo in particolare, Isabella, siccome non tutti hanno letto la sua ricostruzione, lei oltre al fatto, è sfuggito di mano, ha detto la componente fascista delle forze dell'ordine, lei ha anche chiaramente detto che ebbe l'impressione, soprattutto con quello che accadde poi, che ci fosse un tentativo anche di regia politica in cui i capi, per così dire, delle forze di polizia, ma anche l'autorità politica del Viminale, fin dall'inizio avesse impostato una strategia per la quale, in assenza di reati compiuti, si applicavano provvedimenti, insomma, retate di massa. Tant'è vero che disse poi questa roba non avvenne, ma però con la ricostruzione ex post che ci fosse un tentativo politico di calcare la mano, è così? Sì, questo è un altro aspetto, è un aspetto, una convinzione che io mi sono fatto leggendo le carte. Devo dire che c'è stato troppo silenzio su questa vicenda. Io ritengo che una commissione parlamentare d'inchiesta su quanto è avvenuto al G8 di Genova, anche a distanza di anni, forse il paese ancora oggi la meriti, per cercare di capire che cosa realmente è accaduto. Io ho visto un piano operativo elaborato sotto il governo Amato e cambiato sotto il governo Berlusconi. Ho visto una strategia di cosiddetti arresti preventivi che aveva dei profili di illegalità, che comunque non è mai stata portata avanti, e poi si è preferito far massacrare, far distruggere la città. E ho tutta una serie di elementi che ho raccontato in varie sedi, perché la magistratura sul punto è stata piuttosto diciamo tenera, non ha approfondito più di tanto quello che io avevo detto, e che comunque è ampiamente documentato, sì, chiaramente documentato in atti ufficiali, perché io credo che ci potesse essere una strategia che volesse quello, a me dirlo, che volesse un morto tra le forze di polizia in quel contesto. Secondo me, a me sembra abbastanza evidente che volesse sostanzialmente un creare una situazione tale per ridurre la libertà del nostro paese, limitare al massimo le manifestazioni di piazza. Come adesso, cari ascoltatori, insomma, Isabella è un magistrato, sono parole pesanti. Ecco, abbiamo scelto queste due testimonianze proprio per far capire che esiste, secondo noi, la necessità di chiarire con un testo di legge ulteriormente la possibilità di spazi grigi, altrimenti restano. E Sabella dice che c'era la volontà politica di un morto tra le forze dell'ordine per fare una stretta. Non possiamo restare con questi punti aperti così terribili sulla storia italiana. Tra l'altro la legge c'è, ricordiamo, appunto, è stata approvata alla Camera, è stato al momento, perché non c'è accordo politico, rinviata al Senato, a quando non si sa, così si sa come funzionano queste cose, quando non c'è accordo politico sono state rinviate. Poi quando le conclusioni della trattativa ci sono, il Milan esatto, per alzare un pochino comunque staremo a controllare e chiedo a Nicolò da Trapani, Stefano dalla provincia di Alessandria, di restare con noi, se hanno pazienza, perché dopo il giornale radio noi andiamo avanti fino alle 9.30 e quindi daremo loro spazio, così come ringraziamo Alfonso Sabella, Stefano Paoloni, che è presidente nazionale del SAP, sindacato di polizia. State con noi perché tra poco rientriamo, I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. Prudente, molto prudente. È apparso così ieri Mario Draghi dopo il consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, che ha confermato tassi invariati e ha sottolineato che i tassi resteranno al livello del minimo storico a lungo o potrebbero anche scendere sotto questo livello. Ma quella sui tassi è forse l'unica certezza che ieri Draghi ha voluto lasciare agli interlocutori. Per quello che riguarda infatti la possibilità di utilizzare un paracadute pubblico per le banche in difficoltà, Draghi infatti ha confermato che si può usare in casi eccezionali, ma ha anche aggiunto serve l'accordo con Bruxelles e con la Direzione Generale della Concorrenza della Commissione. Prudente, molto prudente anche nella gestione delle sofferenze delle banche italiane. Ha detto infatti Draghi che i crediti deteriorati delle banche italiane sono un grande problema che va affrontato in fretta, ma ci vorrà tempo per affrontarlo, ossia per non svendere questi crediti agli speculatori arrecando un danno alle banche. Infine, prudente, molto prudente anche sulle conseguenze effettive della Brexit da un lato e del golp e della repressione in Turchia dall'altro. È difficile, ha infatti detto il presidente della Banca Centrale Europea, prevedere quale sarà l'impatto delle vicende sia di Brexit che della Turchia. Insomma, una prudenza che la dice lunga sul livello di incertezza con cui la Banca Centrale Europea guarda gli scenari economici futuri, e c'è già chi, con una battuta, ha fatto notare che Mario Draghi è passato dal bazooka famoso con cui salvò l'euro al paracadute. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Mattino. Attenti a noi due. Cari ascoltatori, siamo qui fino alle 9.30, caro Oscar. Dovete sapere che Alessandro Milan si attacca subito ai telefoni per telefonare alla sede della omonima società e sapere, ma hanno firmato i cinesi. Sai che i cinesi hanno detto che vogliamo tutto entro luglio senza Berlusconi. Insomma, ho capito, come ho detto, non succederà nulla. Quest'anno non succederà nulla. Vedrai che anche Parisi sarà fa parte del pacchetto Cina. Ah, ecco. Mandiamo Parisi in Cina e noi ci... No, diciamo che c'è bisogno del sostegno dei cinesi per farlo passare di fronte ai parlamentari e ai capigruppo di Forza Italia. Non è che Berlusconi l'ha convocato ad Arcole perché è nella trattativa, cioè si sa mai. Vende il Milan e Parisi ai cinesi. Naturalmente stiamo ironizzando sul fatto che appunto avete visto sui giornali, ho sentito ieri le notizie, perché c'è una reazione del centrodestra proprio non molto favorevole all'idea che appunto Stefano Parisi, che è andato sindaco del centrodestra, potrebbe essere, anzi pare che sia stato scelto e indicato. C'è un incontro oggi a ora di pranzo proprio tra i vertici di Forza Italia, e Berlusconi ha detto secondo me è lui la persona da cui ripartire, gli altri non è che siano molto d'accordo. No, gli altri, beh, come al solito, gli altri che si vedono un po' scavalcati dall'ultimo arrivato, mettiamola così, arrivato dopo anni di fedeltà. Solo il Corriere della Sera, diamo atto che c'è una volta i nostri colleghi, ci sono un pezzo di rack sul Corriere della Sera, si rende conto che questo giudice, anzi questo funzionario di Palazzo Chigi, che da giorni galleggia nelle cronache, sì, e tutti lo toccano con le pinze, non si, sì, capisce a Palazzo Chigi cosa fa, insomma comunque uno sospettato di essere parte di un meccanismo politico di corruzione di magistrati del Consiglio di Stato, il Corriere della Sera ha la dritta ed è l'unico giornale che dice attenzione, attenzione, perché si è occupato anche della sentenza che, in cui il Consiglio di Stato ha dato ragione a Berlusconi, che era stato richiesto alla Banca Italia di vendere la sua quota del 20% rispetto al 29% che aveva in Mediolanum. Il TAR aveva dato torto a Berlusconi che si opponeva, e il Consiglio di Stato proprio l'anno scorso gli dà ragione. E guarda caso, questo funzionario c'aveva una sentenza con i commenti, le minute, non la sentenza stampata dal computer. Oltre a 250.000 euro messi nelle casse di Champagne, c'era anche questo, chissà. Era Champagne, sicuro spumante. Magari era... A seconda delle fonti di polizia, che se pari col magistrato ti dice Champagne, così fa. Se pari col poliziotto dice, ma no, era spumante Zonin. Ah, Zonin, quello della truffa della banca. No, non volevo dirlo. L'Italia è un posto particolare, sai che Vespa è riuscito a rientrare dei soldi mentre i risparmiatori qualunque se la sono presa in fondo alle tasche, per così dire. Pensa, il capo dell'ufficio vigilanza della Consob, che dovendo lei vigilare sulla Popolare di Vicenza, lei rientra dei soldi mentre invece gli altri vengono fregati. Guarda, l'Italia è una cosa spettacolare. Abbastanza. Comunque sono stati pazienti con noi e li ringraziamo. Nicolò da Trapani, buongiorno, volevano intervenire sul tema di prima. Nicolò. Buongiorno a voi, Milan Fennini. Eccoci. Volevo intervenire perché io faccio questo mestiere, il poliziotto, da oltre 30 anni. Sì. L'ho fatto in varie zone, diciamo Palermo, nella provincia di Trapani, in varie zone, diciamo, dove quando si esce a... Zone calde, dai, diciamo zone calde. Quando si esce di pattuglia non è come stare nel salotto di Porta a Porta a parlare delle problematiche. E che ci vuole dire? E volevo dire che mettere premesso che il reato di tortura va benissimo, si può inserire, che i reati vanno tutti perseguiti, compiuti da tutti, e che non, nessuno vuole la licenza di uccidere, ci assolutamente mancherebbe. Però in mezzo alla strada, quando tu affronti un intervento di una donna che è picchiata dal marito, dall'ex compagno, che ha subito violenze, devi fronteggiare un barbaro, un animale, ci vuole decisione. Però il concetto, se no non riesco a spiegarlo. E devi fronteggiare un barbaro del genere difendendo al contempo la signora, i bambini che piangono, quindi ci sta anche che ti scappa uno schiaffo, che ti scappa una presa più robusta a questo signore, magari gli sloghi la spalla, hai capito? Da lì poi si va a essere inquisiti immediatamente con lo stipendio a mezzo servizio, a metà diminuito, sospesi dal servizio, l'avvocato ti deve andare a prendere, quindi la pressione sugli operatori di polizia in genere aumenta, è notevolissima. Ma questa è l'accusa dei sindacati. Però adesso non è che un intervento energico si configura come tortura, non so, distinguiamo le due cose. Oscar, non so cosa ne pensi tu, ma cioè qui si parla di, se io ti porto un conto all'intervento energico, ma se ti faccio un fermo di polizia e poi all'interno dell'ufficio di polizia, che ne so, ti gonfio di botte, forse la cosa è diversa. Laddove, cioè, il pericolo non c'è più, l'intervento energico ci sta. Credo anch'io che si tratti di questo. Però riflettiamoci. Come vedi, i rappresentanti delle forze dell'ordine automaticamente ci chiamano, perché dicono: quel progetto di legge nasce per metterci a noi nel mirino. Questo è il punto. Il che significa, ripeto, che comunque non viviamo in un ordinamento nel quale esiste un rapporto di serenità tra parti dello Stato. Assolutamente no. Assolutamente no. Stefano, invece, dalla provincia di Alessandria, buongiorno. Buongiorno Giannino, buongiorno Milan. Guardi, io posso dire di avere una certa conoscenza dei fatti del G8. Io durante il periodo dei processi ho lavorato nella segreteria legale come volontario, che si occupava dei casi delle parti civili della Diaz e di Bolzaneto. Sì. Quindi ho avuto modo di seguire la ricostruzione dei fatti secondo il punto di vista delle parti civili. E di confrontarla con quella che poi c'era negli atti giudiziari, quindi perché per mestiere doveva fare entrambe. Esattamente. E posso dire che c'è da premettere che quella situazione fu una sospensione dello Stato di diritto, come già sostenuto da molti, e quindi inevitabilmente, per come la vedo io, c'è stata una regia politica, una volontà politica di creare un clima di tensione che permettesse poi eventuali altre azioni. Quello che ci ha detto Sabella, insomma, addirittura. Sì, cosa su cui mi trovo perfettamente d'accordo. Posto questo, io ritengo però che all'interno delle forze di polizia che siano fasciste o meno, questo non sta a me dirlo, però ci sia un certo senso di impunità legato all'appartenenza a un corpo, e questo senso di impunità penso che sia anche rafforzato da quello che è successo, dalle promozioni che hanno avuto chi copriva dei ruoli apicali. Questa è una cosa di chi non si è occupato della questione di genere non può avere chiaro, ma te la capisco al volo perché per mestiere ovviamente abbiamo seguito le faccende, cioè tutta la serie di responsabili dei reparti da fuori Genova venuti, le colonne mobili e così via, era una catena che poi ascendeva fino ai vertici assoluti della polizia, che nelle vicende successive il capo della polizia è stato tenuto da parte, mentre poi la seconda fila è quella che ne ha pagato il prezzo, perché si fa così, no? A quel punto per tutelare il capo. Questa faccenda qua però è un altro paio di maniche che dice come sono organizzate le forze di sicurezza del nostro paese e che spiega perché non c'è serenità, perché le cordate contano e come. Cari ascoltatori, se andate a vedere sui giornali di oggi c'è un'indagine, ci sono elementi sul comandante della Guardia di Finanza nominato dalla politica, il generale Toschi, e vedrete che anche lì le cordate contano e come ai vertici della finanza. Tornano in auge gli uomini di un discusso comandante generale diventato poi politico, travolto da un'inchiesta giudiziaria, quella famosa sulle spigole, e adesso con Toschi, anche lui con la magistratura che lo indaga, diventa comandante generale con un'altra cordata. Ecco, il nostro ascoltatore ci segnala un altro degli aspetti per cui non c'è serenità istituzionale. Ci va per cordate. Allora, caro Oscar, noi abbiamo chiamato Fabio Bistoncini, che è fondatore e amministratore delegato di FB Associati. Buongiorno e grazie di essere qui con noi. E che diciamo è uno storico, grande attore nel campo della rappresentanza di interessi in maniera trasparente. Ha scritto un fracco di libri su diciamolo questo. Anche lobby, che non è un insulto. Bistoncini, buongiorno. Perché tutto è nato dal fatto che avete fatto una ricerca dentro o fuori dal palazzo, col punto di domanda, una ricerca su come il Movimento 5 Stelle, un'analisi proprio di come il Movimento 5 Stelle in questi anni si è comportato, in questi anni di legislatura, dal punto di vista del comportamento parlamentare, cioè per capire se insomma questa forza politica stia dentro o fuori appunto del palazzo, eccetera. E avete incontrato Di Maio. Poi Bistoncini, è successo quel che è successo, ma partiamo se vuole dal motivo per cui lo avete cercato e cosa volevate mettere a fuoco in questa ricerca. Allora, guardi, la ricerca, noi come società abbiamo creato un centro studi che fa questo genere, anche questo genere di ricerca, e quindi abbiamo analizzato i dati degli atteggiamenti e i comportamenti dei gruppi parlamentari grillini, okay? Da cui escono fuori alcuni spunti interessanti, che tra l'altro sono stati presi, il primo a parlare è stato il Sole 24 Ore, il professor Dalemonte un mesetto fa fece un articolo proprio su questo. E quindi è ovvio che a noi interessava comprendere, essendo il Movimento 5 Stelle una forza politica, quali fossero le dinamiche, anche per comprendere interne e poi dal punto di vista di evoluzione all'interno del scenario politico istituzionale, quali sono le dinamiche che guidano quel movimento. Semplicemente questo. Cioè, le avete capite in questo incontro? Secondo me con Di Maio. Allora, l'incontro, anche qui si parla tanto di cosa, è un incontro che è stato a porte chiuse, nella misura in cui tutti i nostri incontri riguardano invitiamo i nostri contatti, alcuni clienti, eccetera, per discutere e cercare di ragionare su quello che è lo sviluppo, diciamo, dello scenario politico istituzionale. La cosa che ci fa piacere è ovviamente un confronto, poi uno può continuare a pensarla. Ad esempio, il tema a me caro, cioè la rappresentanza dei gruppi di interesse, se uno si candida a guidare un paese o anche guidare un'amministrazione cittadina, non può prescindere da dialogare con gli interessi organizzati che sono la nostra società. E quindi mi interessava sapere cosa ne pensasse un esponente di un movimento politico che invece partiva da posizioni di non dialogo proprio con... Esatto, perché nasce proprio così, almeno sui giornali in questi anni l'abbiamo letto, Oscar, la posizione da parte del Movimento 5 Stelle sembrava un po' pregiudiziale nei confronti delle lobby. E invece Di Maio mi pare che ha detto anche pubblicamente, credo l'abbia detto anche in questo incontro, che sarebbe per una legge, per promuovere una legge che regolamenti il... il regolamento e il rapporto tra gruppi di interesse. E secondo me il grande battage, clamore, al netto della diciamo normale polemica politica, perché poi ovvio non entro nel merito, no, dei vari post-tweet uno contro l'altro, eccetera, eccetera, però al netto è il problema ancora terminologico, Cioè, se ci fosse una legge che regolamenti e disciplini in modo trasparente, perché questo è l'unico obiettivo, la rappresentanza degli interessi probabilmente non sarebbe stato così strano l'incontro e non avrebbe attirato così tanta attenzione l'incontro che c'è stato. Ah, e su questo, diciamo, Di Maio ha detto che lui è favorevole alla regolamentazione. Ecco. Quindi già questo, diciamo... Questa è la notizia che è emersa, diciamo, da questo incontro. Peraltro io credo che, come sempre, Oporto, Tuscandala e Venia, perché che cosa vuol dire? Vuol dire che uno dei luoghi comuni della comunicazione pubblica, cioè quello per cui esistono indefiniti, misteriosi, non dichiarati luoghi nei quali lo scambio degli interessi e la politica fanno dei patti indicibili, classicamente, tutti quelli che dicono questa è la classica accusa, il Bilderberg, capisci? Ecco, sì. Queste robe qua, no? Ecco, la Mount Pelerin Society, la mano nera, ecco, la mano nera. Allora, questa roba qua ha bisogno di tutta la polemica del caso perché alla fine si accetti la piena trasparenza. Cosa voglio dire? Voglio dire, all'Istituto Bruno Leoni abbiamo esaminato a nostra volta, la pagina ci ha fatto due pagine lunedì, i 514 progetti di legge che Camera e Senato hanno depositato dopo aver elaborato i 5 Stelle. Nei quali, in alcuni di loro, quelli che riguardano le tematiche di settore, classicamente della vita italiana, per uno che segue e sa quali sono le posizioni delle diverse categorie, diversi interlocutori, si capisce che loro hanno la loro idea, ma l'hanno confrontata con i diversi rappresentanti di interesse. Non c'è niente di male, è evidente questo. Allora, tanto vale dare trasparenza. Invece, la reazione all'incontro testimonia che noi viviamo il bispensiero. Da una parte accettiamo l'idea che gli interessi ci siano, dall'altra come? Parla di accettare l'idea del confrontarsi con gli interessi e come sempre siamo compresi come ipocriti sulla sicurezza e siamo molto ipocriti. Ma anche perché su questo non tema. Lo so se Bistoncini ha notato questa cosa, all'interno del Movimento 5 Stelle c'era secondo lei una preclusione, un pregiudizio nei confronti dei portatori di interessi, delle lobby, e quindi questo incontro viene vissuto magari da alcuni del Movimento come un qualcosa, come dire, ma no, ma come, vai a parlare proprio con i portatori di interessi, con le lobby? Oppure non c'era questo pregiudizio? Guarda, io non ho così esperienza nei confronti. Io posso dirle che sicuramente alcuni esponenti in passato, diciamo, alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle non erano favorevoli proprio ad un rapporto con i gruppi di interesse, soprattutto nella prima fase, nella fase in cui loro sono arrivati in Parlamento. Poi, e mi riferisco anche a quanto accade a Bruxelles, perché noi abbiamo anche un ufficio a Bruxelles. Sì. L'atteggiamento è in alcuni casi cambiato, cioè nella prassi, anche se non lo dicono, però nella prassi hanno cominciato a dover prendere atto che poi alla fine le informazioni da confrontare, da rigettare, i dati li forniscono molto spesso, io oserei dire quasi sempre, proprio gruppi di interesse che sono coinvolti in una definizione di policy. A Bruxelles, diciamo, è palese questo. Perché nel processo decisionale i gruppi di interesse sono molto presenti e in maniera trasparente, non completamente trasparente, ma molto più trasparente rispetto a quanto accade in Italia. Lo stesso Di Maio l'altro giorno ha detto: ma la mia reazione nei confronti dei lobby di chiusura è stata quando ho visto il mercato delle vacche fuori le porte delle commissioni parlamentari. Certo. Il mercato delle vacche durante la legge di stabilità. Dopo poco mi sono accorto che forse lì. Quel mercato, dopo un anno di esperienza, mi sono accorto forse che quel mercato di lobbisti ce n'erano pochi, ma c'erano tanti forse che chiedevano favori o scambiavano. No? E invece di fronte a una regolamentazione in piena trasparenza di portatori di interesse, questo non ci sarebbe. No, Bistoncini non ci parla, però insomma qui una chiusura la dobbiamo alla questione che poi è esplosa dopo, no? Come abbiamo detto, cioè in un lungo post su Facebook Di Maio ha detto a un certo punto: io non ce l'ho con le lobbies, plurale, esiste la lobby dei petrolieri e quella degli ambientalisti, quella dei malati di cancro e quella degli inceneritori. E questa frase ovviamente sulla questione dei malati di cancro ha scatenato tutta la polemica, perché abbiamo già detto, insomma, a mio parere personale non si può sentire, diciamo, come espressione. Però Bistoncini, questo è successo dopo, insomma, sì. siete in qualche modo riapparsi anche voi per questo effetto trascinamento da Facebook di Di Maio. Sì, no. Sì, poi è strano, no? Però la cosa adesso con tutto il rispetto possibile, c'è stato sicuramente un errore di comunicazione, ma che è dovuto purtroppo al fatto che ancora il nostro paese, e Oscar che segue questo tema sa meglio di me, se io dico lobby, suscito delle reazioni. Perché sì, se lei prende lo stesso post e sostituisce al termine lobby il termine gruppo di interesse, ci sono i gruppi di interesse e le associazioni dei pazienti malati di cancro, di altri, che esistono, che sono dei gruppi di interesse. Allora perde, diciamo, anche sì, chiaro, si depotenzia tutta la politica, si depotenzia tutto, perché in effetti se poi noi andiamo a vedere come io considero le associazioni di pazienti come effettivamente sono dei gruppi di interesse all'interno della società, svolgono anche loro attività di lobby e per me non c'è niente di male. Sì, tra l'altro c'è da dire che poi Oscar, che la politica stesse fuori da queste cose, cioè io la cosa che io ieri ho twittato, come si suol dire, la frase che abbiamo detto, la cosa se volete che mi ha dato anche più fastidio, che c'erano esponenti di vari partiti politici che la ritwittavano evidentemente per andare contro politicamente a Di Maio. Ma chi se ne frega della politica se uno in quel caso ha fatto uno scivolone, come evidente sia la tua scivolone. Osservazione sia chi la pensa come te non è questione di colore politico, no, sigla politica. Il nostro è un appello generale a capire che dire ma allora risolvi questo problema, tentiamo di portare un po' di rispetto a queste consapevolezza, non si usano le malattie come se fossero in maniera impropria per metafore, no, facciamolo per rispetto verso noi stessi, verso tutti quelli che affrontano questo problema. Peraltro lasciami dire, visto che parliamo di Di Maio, per esempio oggi oggi c'è il Financial segnaliamo Times. Financial Times c'è una bella pagina di intervistona a Di Maio, il che è un altro segnale di come cresce la percezione fuori di Italia, Financial Times, dell'importanza dei 5 Stelle, sul tema su cui poi settimana dopo settimana stiamo arrivando, venerdì la settimana prossima si capirà cosa succede a Siena, anche ieri Draghi ha parlato come si fa, come non si fa per fare intervenire il capitale pubblico sui crediti deteriorati delle banche, e c'è un'opinione ben distinta da quella del governo e da quella di cui si parla nei giornali. Di Maio dice noi saremmo per brutalmente fare intervenire lo Stato, pulire tutto, poi cedere, però la cosa interessante è che il Financial Times ha una pagina intera. Certo, una pagina intera. No, ma è chiaro, Di Maio è andato di recente anche in Israele, c'è stata anche lì delle polemiche. L'azione di accreditamento e la percezione che con la legge elettorale possono vincere c'è. Infatti è per questo che la cambiano la legge elettorale. E andrà a settembre negli Stati Uniti, credo anche. Insomma, c'è quella sorta di accreditamento internazionale. Che non ci sarà sfuggito che Napolitano ha lasciato Renzi nella palta su questo, che non è proprio poco come cosa. Sulla legge elettorale. Però nel ringraziare Fabio Bistoncini, Oscar, noi vogliamo chiudere un po' come abbiamo iniziato. Abbiamo parlato di israelizzazione, no? Qualche giornale dice dovremmo copiare Israele. Se copiassimo Israele, cose come quelle di Nizza, stragi, si potrebbero, se non altro, ridurre, contenere. Noi abbiamo uno dei massimi esperti che insegna all'Istituto di Controterrorismo di Herzliya, professore Eli Carmon. Buongiorno professor Carmon, eccoci. Buongiorno a voi. Dovremmo copiare Israele o si possono paragonare le situazioni come quelle delle nostre città, Milano, Roma, Nizza, Parigi, Bruxelles, a una città israeliana? No, non si può copiare, perché Israele è un caso sui generis, è un paese che da 50 anni lotta contro il terrorismo, tanto interno, principalmente da Gaza a Cisgiordania, attraverso le frontiere, terrorismo internazionale. È un paese piccolo e praticamente chiuso ai vicini, che sono anche la maggioranza di nemici di Israele. Dunque ci sono dei tattiche, ci sono alcuni protocolli che possono essere utilizzati nella realtà europea, però non si può copiare esattamente il modello israeliano. Non si può copiare. Che cosa si può prendere dal modello israeliano? Per esempio a Nizza è stato fatto qualche grave errore, si parlava di una sola macchina a controllo della promenade, c'è stato qualche errore grossolano, evidente? Pare che realmente c'è stato un errore, perché c'è una legge nella città di Nizza che non permette a questi camion gravi di viaggiare nel centro della città. Poi non c'è stata sufficiente, credo, personale della polizia per fermare questo terrorista. E poi c'è stato uno o due cittadini che hanno tentato fermarlo, ma non erano armati. in Israele abbiamo avuto dei casi a partire dagli anni 90, anche negli anni 80, di coltellate, di usi di macchina, anche dei bulldozer. E per esempio in Gerusalemme, in 2 o 3 casi, dove ci sono stati dei bulldozer utilizzati per ammazzare gente nella strada, ci sono stati i civili. Ho soldato che era in vacanza e aveva l'arma su di sé. E dunque c'è una simbiosi fra le autorità di sicurezza e la polizia con i cittadini. C'è una cooperazione perché è un popolo unito prima questa, è una comunità cresciuta ed evoluta sul senso della difesa necessaria della sicurezza nazionale, visto che è stata attaccata prima ancora che proclamasse l'indipendenza. Cioè, per me, io che conosco e amo Israele, magari potessi immaginare che pezzi d'Italia avvertano la stessa cosa. Io credo di no, perché la storia e la cultura sono diverse. No, perché l'ascoltatore di prima ci ha detto armiamo di più i civili, sono civili diversi, nel senso che hanno appunto questa cultura della difesa, di essere perennemente in guerra e quindi di una comunità che si deve difendere. Polemiche politiche. Non hanno scelta, perché prima professor Carmon, un ascoltatore ci ha chiamato dicendo dovremmo dare la possibilità di armare di più i civili in Italia, ma le situazioni sono diverse, appunto, no? Non sono come la comunità israeliana molto unita. Sì, però dipende anche da quello che succederà dal terrorismo. Sappiamo oggi che ci sono almeno 5, 6, 7 miglia di europei che volteranno, torneranno dalla Siria e dall'Iraq, perché il territorio praticamente dispare dell'ISIS o del Daesh. Dunque il 30% già sono tornati e non c'è controllo della polizia, che non ha il personale per il momento. Si avranno più casi di terrorismo massiccio, succederà come c'è stato in Spagna. Spagna ha avuto quel grande attentato nel 2004, marzo del 2004, 200 persone uccise. Sì. E poi a partire da questo momento non c'è stato nessun caso di attacco terroristico, perché la polizia e i servizi di sicurezza sono stati preparati, anche la legge è cambiata. Sì, forse più che civili. Anche pochi spagnoli vanno a lottare in Siria e Iraq, è molto interessante questo comparato con i francesi o con i tedeschi. Forse più, Oscar, più che i civili bisognerebbe dotarci, quello sì, di forze dell'ordine specializzate con strategie, strumenti e operatività tecnologica. Però Carmo, c'è anche un'altra modalità, quella italiana: basta trattare riservatamente con i terroristi e non si hanno gli attentati. Questa credo che sia la via italiana, lei che ne pensa? Forse l'Italia è stata minacciata, principalmente il Vaticano, ci sono molti video e anche minacce per scritto nei documenti dei jihadisti, però credo che i servizi della polizia sono stati efficienti. Per esempio, prima del 11 settembre 2001 a Milano è stato sventato un attentato attraverso l'arresto di una cellula che credo che il mio amico giudice D'Ambrosio all'epoca è riuscito a fermare questo gruppo. E poi credo che la comunità musulmana in Italia è molto più piccola che quella nei paesi come Germania o Francia, e quindi minor problema, e anche meno radicalizzata, perché è la prima generazione. Vediamo che molti di questi terroristi potenziali sono la seconda e la terza generazione, che non si identificano con i loro parenti, con i loro padri e madri. Sì. Insomma, però sapere questa, grazie professore Eli Carmon, sapere che appunto a Milano prima del 2001 no, mi era sfuggita, insomma. No, D'Ambrosio portato a segno prima di cambiare mestiere, dei colpi. Ci chiama Dario da Savona, con cui concludiamo. Dario, buongiorno a tutti. Complimenti a tutti quanti, a tutto lo staff di Radio 24, perché io sento solamente grazie. Voi. Grazie, continui voi, così, continui così. Dica, Dario. Voleva riagganciarmi sia al signor che prima di me, sì, che a quell'altro che parlava del porto d'armi. Sì. Allora, io ho il porto d'armi da più di 40 anni, per caccia, uso caccia, però anche al tiro a segno, con la pistola, con la carabina. Secondo me ci sono tante persone come me che sono più capaci di maneggiare pistole d'armi che tanti poliziotti e carabinieri. Perché noi andiamo abbastanza spesso, diciamo, ad allenarci nei tirassegno. Ma e quindi, abbastanza... cioè, io non lo mettiamo in dubbio la sua mira, però quello, cosa dovremmo fare? Io non penso che bisogna diventare tutti quanti poliziotti, però certe persone potrebbero essere selezionate, addestrate eventualmente per poter, in caso di emergenza, come ausili alle forze dell'ordine. Ma non basterebbe aumentare una polemica, poi vedi Repubblica già, cioè, vedo vogliono l'esercito, vogliono l'esercito dei privati di destra. In Italia scatterebbe automaticamente. Ma insomma, però anch'io qualche perplessità ce l'ho. Investiamo di più nelle forze dell'ordine, adottiamoli prima ancora personale. Di affrontarla in termini ragionevoli, finirebbe a rodeo politico con l'accusa di questo è quello che perché è una risposta un po', mi sembra un po' una risposta centrata a un problema che c'è, ecco, questo dico. Ne sono convinto, insomma, non siamo la Svizzera. Vabbè, io vado via il venerdì e torno lunedì, ma il Milan sarà sempre italiano. E domani mattina il Milan sarà sempre... Non è detto. Vediamo. Intanto salutiamo tutti, ci troviamo lunedì, ma Oscar è qui alle 4:30 e domani mattina. E evviva.